Quindi Giuditta disse loro: «Ascoltatemi, fratelli, prendete questa testa e appendetela sugli spalti delle vostre mura. Quando poi apparirà la luce del mattino e il sole sorgerà sulla terra, ognuno prenda la propria armatura di guerra e ogni uomo valido esca dalla città. Iniziate l'azione contro di loro come se voleste scendere nella pianura contro l'avanguardia degli Assiri, ma in realtà non scenderete. Questi, prendendo le loro armature, accorreranno nel loro accampamento e sveglieranno i generali dell'esercito assiro. Si precipiteranno verso la tenda di Oloferne, ma non lo troveranno. Si lasceranno prendere dal terrore e fuggiranno davanti a noi. Allora voi e tutti gli abitanti dell'intero territorio di Israele, inseguiteli e abbatteteli sul loro cammino. Ma prima di compiere ciò, chiamatemi Achior, l'ammonita, perché veda e riconosca colui che ha disprezzato la casa di Israele e che l'ha inviato tra noi come per destinarlo alla morte». Fu fatto venire Achior dalla casa di Ozia. Quando venne e vide la testa di Oloferne nella mano di un uomo in mezzo all'assemblea del popolo, cadde bocconi a terra e svenne. Quando l'ebbero risollevato, si gettò ai piedi di Giuditta e, prostrato davanti a lei, disse: «Benedetta sei tu in tutte le tende di Giuda e fra tutti i popoli che saranno presi da meraviglia quando udiranno il tuo nome. Ora raccontami tutto quanto hai compiuto in questi giorni». Giuditta, stando in mezzo al popolo, gli raccontò tutto ciò che aveva fatto dal giorno in cui si era allontanata fino al momento in cui parlava loro. Quando ebbe cessato di parlare, il popolo scoppiò in alte esclamazioni di giubilo e riempì la città di grida festose. Achior, vedendo quanto aveva fatto il Dio di Israele, credette fermamente in Dio, si fece circoncidere la carne del prepuzio e fu aggregato alla casa di Israele fino al presente. Quando spuntò il mattino, appesero la testa di Oloferne alle mura. Ognuno impugnò le proprie armi e quindi, distribuiti in schiere, uscirono verso i pendii della montagna. Quando li videro, gli Assiri mandarono a informare i loro capi. Questi corsero dai generali, dai chiliarchi e da tutti gli ufficiali. Poi si recarono alla tenda di Oloferne e dissero a colui che era preposto a tutte le sue cose: «Sveglia il nostro signore, perché quegli schiavi hanno avuto l'ardire di scendere a battaglia contro di noi per farsi annientare completamente». Bagoa entrò e bussò alla cortina della tenda. Pensava infatti che egli dormisse con Giuditta. Siccome nessuno si faceva sentire, aprì, entrò nella camera e lo trovò morto, disteso al suolo, senza la testa che gli era stata portata via. Allora si mise a gridare con pianti e lamenti, urlando con forza e strappandosi le vesti. Poi entrò nella tenda dove era alloggiata Giuditta e non la trovò. Allora si precipitò fuori davanti al popolo gridando: «Quegli schiavi hanno agito perfidamente. Una sola donna ebrea ha gettato la vergogna sulla casa del re Nabucodonosor. Ecco, Oloferne giace a terra e la testa non è più su di lui». Udite queste parole, i capi dell'esercito assiro lacerarono i loro mantelli con l'animo completamente sconvolto ed elevarono in mezzo all'accampamento altissime grida e urla di dolore.